Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Mercati rionali, etichette queste sconosciute. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Per l'approfondimento della settimana scopriremo quanto siano trascurate le norme in materia di etichettatura sulle bancarelle di frutta, verdura e pesce soprattutto. E al ristorante, ahi noi, è facile incappare senza saperlo in vongole turche o polpo vietnamita. Dai viaggi alla tecnologia fino al cinema sono gli over 60s, gli ultra sessantenni, la nuova categoria forte nei consumi. Nel focus sui trend parleremo di potere grigio. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità di questa settimana. Le famiglie italiane alle prese con la crisi tagliano sui consumi, ma continuano a comprare telefonini e si affidano a giochi e lotterie. Questo è il quadro che emerge dall'indicatore dei consumi di Confcommercio, che segnala a gennaio un calo dell'1% su base annua e dello 0,5% rispetto a dicembre. Fanno eccezione, appunto, le spese per beni e servizi per le comunicazioni, Gratta e Vinci e simili. Passa in mani straniere un altro marchio del Made in Italy. Coccinelle è stata venduta ai coreani di Inland, freschi proprietari di un altro brand italiano di borse e accessori, Mandarina Duck. Sarà il pantalone sotto la gonna il must del prossimo inverno. Dritto, alla caviglia e con un piccolo polsino è stato il dettaglio più fotografato, pronto ad arrivare nella moda di tutti i giorni, delle passerelle milanesi e parigine. La cosmetica vede rosa. Nonostante le forti tensioni sulla propensione al consumo, anche nel 2011 il settore segna una lieve crescita, più 1%, e tocca i 9 miliardi di euro di fatturato. Gli shopper di plastica potranno essere commercializzati fino al 31 dicembre 2012. La Commissione Ambiente della Camera allunga i tempi per l'introduzione definitiva dei sacchetti monouso ecologici. Slitta anche l'avvio delle sanzioni, che scatteranno solo il 31 dicembre 2013. La stilista inglese Catherine Hemnet firma una collezione di moda etica per Coop. Together it is possible, l'ha scritta sulla maglietta simbolo, che celebra l'anno internazionale della cooperazione. La collezione ospita anche altre frasi celebri della stilista dissidente. Da Stop and Think, fermati e rifletti, a Knowledge is Power, sapere è potere. La borsa della spesa. Questo è bello, eh? Quella metti dentro la patata, zucchina, la carota, la mela, metti acqua. Vede, pochi farsi euro, bei bianchi. Le bistecche. Polpo, polpo, prego, prego, prego, prego. E davvero, polpo, polpo. Parliamo che abbiamo la cicchia. La cicchia che darai, cicchia, cicchia, cicchia. Che gioia i mercati rionali, viaggio nei profumi, nei colori, nelle tradizioni di molte città, spesso luoghi di affari e acquisti doc per molti intenditori, altre volte però fonti di fregature. A metterci in guardia sull'argomento per quanto riguarda le bancarelle di frutta, verdura e pesce arriva un rapporto del Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino, rapporto in cui emerge quanto vengano ignorate nei mercati le norme sull'etichettatura dei prodotti. I banchi in regola sono solo 2 su 10 nell'ortofrutta, 4 su 10 per il settore ittico. Tra le indicazioni obbligatorie il prezzo non manca, ma origine, categoria e provenienza troppo spesso sì. Il rapporto assegna la maglia nera a Calabria, Sicilia e Campania. Tra le regioni più virtuose spicca invece il Friuli Venezia Giulia. Silvia Biasotto del Movimento Difesa del Cittadino. Sono 8 anni che noi appunto rileviamo il rispetto dell'etichettatura nei mercati rionali essenzialmente di 2 prodotti che vengono venduti sfusi, l'ortofrutta e i prodotti ittici. Soltanto 2 venditori su 10 rispettano la normativa per quanto riguarda l'ortofrutta e 4 su 10, in pratica il 43%, per quanto riguarda i prodotti ittici. Sono 8 anni che è in vigore una vera e propria normativa anche riguardo l'origine per questi prodotti. E purtroppo